Ciao carissima, sono Amanda. Come stai? Oh, capisco, beh, certo, le solite preoccupazioni, figurati chi è che non ce le ha. È proprio per questo che la Bottega della Natura ha pensato anche a te. Con la sua nuova linea di aromaterapia potrai senza... Come? Ah, no, certo, capisco, ma... Va bene, allora riprovo più tardi. No, nessun problema. Allora domani pomeriggio? Pronto? Pronto? Oh, è caduta la linea. Peccato, non ho avuto il tempo di parlare dei rossetti che non lasciano traccia. E vabbè, e allora proviamo con Elsa. 7, 5, 4. Elsa, ciao carissima. Sì, sono Amanda Perrone. In effetti è da un po', sì. Come stai? Ah, mi dispiace, spero niente... Capisco, beh, per sicurezza è sempre meglio fare dei controlli. No, non ti preoccupare, volevo soltanto parlarti di questa nuova linea di rossetti che non lasciano traccia. Adesso? Ma, vabbè, no, se devi proprio adesso. Va bene, allora, buona fortuna. Ma figurati tesoro, ti richiamo io che tu sei sempre la prima a prendere... Pronto? Elsa? Elsa? No, non è possibile, ci deve essere un problema di linea. Di sicuro, due telefonate su due che mi cadono così... Tommaso? Tommaso, vieni qui. Sì, mamma. Tommy, non funziona il telefono. Sì, mamma. Tommaso, mi hai sentito? Non funziona il telefono. Sì. Ma sì, cosa? Lascia stare quel giornale. Non funziona la linea. Scommetto che ce l'hanno staccata. Anzi, scommetto che non hai pagato la bolletta. L'ho pagata la bolletta, mamma. Ah, sì? E allora si può sapere perché non funziona? Non lo so, ci sarà un guasto. Ma la smetti con quel giornale. Perché? Che c'è? L'hai pagata la bolletta? Ti ho detto di sì, l'ho pagata. Non urlare con me, sai? Beh, bisognerà chiamare quelli del telefono e dire che facciano qualcosa. E devo farlo io. Certo, perché devo farlo io? Devo sempre fare tutto io in questa casa. Uffa. Dove vai? Da quelli del telefono, no? Basta che li chiami, no? E come? Come li chiamo se la linea non funziona? Che faccio? Acchiappo un piccione viaggiatore e vediamo se mi dice culo? Tommaso, smettila, non mi piace questo linguaggio. Guarda che c'è la linea. Come? C'è la linea, senti? Per oggi possiamo lasciare in pace i piccioni. Ma come? Allora... E dove vai? E vado a leggere il giornale. Ma non puoi leggerlo qui? Mamma, non vorrei disturbarti. Ma non mi disturbi mai, tesoro, lo sai benissimo. Dai, stai un po' qui con me. Ma tu non devi telefonare. Lavorare, Tommaso, lavorare. Io non è che telefono alla gente tanto per... Sì, scusa, telefonare e lavorare. Sì, ma certo, ma non mi dai nessun fastidio. Sì, ma tu a me sì, cioè io voglio leggere il giornale. Ma, sì, vabbè, il giornale devi leggere. Ecco, sai che ti dico? Posso lavorare anche dopo, così intanto tu puoi... Posso cosa? Beh, puoi stare qui con noi, no? E qui con me, mentre mi alleno. Siamo una famiglia, no? Così parliamo anche un po'. E di che? Di che? Di te. A te e tua sorella bisogna sempre tirarvi fuori le parole con le pinze. Mamma, io stavo solo leggendo un giornale. Mica scappa. Insomma, lo puoi leggere anche dopo, quando riprendo a lavorare, no? Cosa vuoi sapere? Ad esempio, come va in fabbrica? Ecco, se ci sono delle prospettive, insomma, non mi dici mai niente. Beh, perché non c'è mai niente da dire. Ma come ti trovi? Che cos'è che fai? Te l'avrò detto un milione di volte. Io controllo la lampadina rossa. E? E poi? E poi basta, controllo la lampadina rossa. Sì, ma che cos'è questa lampadina rossa? Una lampadina rossa. Tommaso, insomma. Ma insomma cosa, mamma? Io mi hai chiesto cosa faccio e io ti ho detto cosa faccio. Io controllo la lampadina rossa. Se ti dicevo, se controllavo la lampadina verde, ti dicevo controllo la lampadina verde. Se invece controllo la lampadina rossa, ti dico controllo la lampadina rossa. Va bene, Tommaso, calmati. Ma che cosa vuol dire? Che cos'è questa lampadina rossa? Allarme. Cosa? Se si accende la lampadina rossa, io devo dare l'allarme a quelli di sopra, che poi avvisano quelli di sopra, che poi avvisano quelli di sopra. Sì, che poi magari avvisano quelli di sopra ancora. No, basta. Ho solo tre piani sopra. Cioè? Cioè che io avviso quelli di sopra, che avvisano quelli di sopra, che alla fine avvisano quelli di sopra. Sì, ma avvisano di che cosa? Che allarme è? Lo sanno quelli di sopra. Tommaso! Mamma, non lo so, io devo solo avvisare. E non sai per cosa? Ma come non lo so? Che si accende la lampadina rossa? Ma che vuol dire? Mamma, non lo so, io devo solo... Controllare che si accenda la lampadina rossa, ho capito! Solo questo. Ma non hai delle responsabilità. Allora, mamma, io guardo la lampadina rossa, solo io posso controllarla, solo io posso dare l'allarme, è un ruolo di altissima responsabilità. Dov'è Gilda? Cosa? Gilda, dov'è Gilda? A lezione di danza. Ah, è tornata a scuola. Come è tornata? Lei va sempre a danza i lunedì, i mercoledì e i venerdì. Eh sì, ma aveva smesso. Smesso? Ma che litigi? Beh, uno perché non può smettere. Ma perché dovrebbe smettere? Non lo so, però la settimana scorsa sono passato a prenderla e mi hanno detto che non va a lezione da un po'. Chissà dove sei andato. A scuola di Gilda. Sicuramente ti sarai confuso con un'altra scuola. No, mamma, la retta da pagare arriva a me ogni mese. Lo conosco l'indirizzo. Beh, si saranno sbagliati. Oh, signore benedetto. Senti, Gilda è troppo in gamba. E il ballo è tutta la sua vita. Poi figurati se interrompe ora che ha passato il provino. Il provino? Hanno fatto dei provini per il nuovo corpo di teleballo di Teleradio T. Chi? Teleradio T, la stessa trasmissione dove io ho lavorato per anni, Tommaso. Hanno fatto i provini nella scuola di tua sorella e ho chiesto alla direttrice, che è una mia amica, di inserirla. E ha passato il provino. Mi chiedo dove vivi, Tommaso, certe volte. Mamma, semplicemente non lo sapevo. Certo, perché chissà dove hai la testa. Beh, comunque, ormai manca solo il secondo provino ed è dentro la trasmissione. Ma chi, Gilda? Sì, Gilda, proprio tua sorella, Gilda. Ti sembra così strano, eh? Beh, sì. Perché tu la sottovaluti, ecco perché. E sottovaluti anche te stesso, per questo non farai mai carriera. Mamma, ma cosa c'entra la carriera adesso? Stiamo parlando di Gilda. Perché tu non ci credi, eh? Tu non credi in tua sorella. No, non è questo, è solo che dovremmo prima risolvere delle cose. Che cosa, Tommaso? Risolvere che cosa? Mamma, Gilda dovrebbe fare prima dei controlli, poi dovrebbe fare delle visite. Non dovrebbe... iniziare nemmeno questo discorso, hai capito? Mamma, è importante. Non venire a dire a me come devo fare la mamma, Tommaso, che io lo so quanto è stato difficile da sola dopo che quel devosciato è scappato via da un giorno all'altro. Papà era un grande musicista. Papà era un vagabondo, un nulla facente, uno che 13 anni fa ha preferito lasciarci soli. Addio, punto. Questo ci ha lasciato scritto. Tommaso, ti prego, non tirare fuori tuo padre che mi sale il sangue al cervello. Ma se l'hai tirato fuori tu? Bravo, bravo, Tommaso, bravo. I miei complimenti. Sempre a dare la colpa agli altri, così? Io lo so perché non hai responsabilità in fabbrica, lo so io il perché. Cosa fai? Te ne vai? Vigliacco! Sei proprio come tuo padre, Tommaso, sei un vigliacco! E io, tutti questi sacrifici, rinunciare alla fama, al successo, e per cosa? E questo è il ringraziamento. Io che potevo, io tutto potevo essere. Gilda, amore mio, fatti guardare. Hai sete? Vuoi mangiare qualcosa? Ti preparo qualcosa? Non mi racconti niente. Che cosa avete fatto a scuola? Abbiamo ballato. Ma davvero? Avete ballato? E chi l'avrebbe detto? E che cosa avete ballato? Classico? Moderno? Sì. Cosa sì, tesoro? Classica? Ma che bello, è difficile. Ma tu sei bravissima, amore mio, e diventerai più brava di me, vedrai. Beh, hai fatto amicizia con qualche ragazzo, magari? No, eh? Ah, impossibile, ma sì, saranno tutti un po' così. Lo sono quasi tutti nel mondo dello spettacolo, lo so bene, una fatica. Vabbè, tutti tranne tuo padre. Lui sì che era un vero uomo, il più bel musicista di tutta l'orchestra, il più bravo, il più... certo, infatti era così tanto tutte queste cose che poverino gli stavano troppo strette queste mura. Ma che ci importa, eh? Noi non abbiamo mica bisogno di andare in cerca, vero? Saranno loro a venirti a cercare. Mamma, a me non mi cerca nessuno. Ma che dici? Ma certo che ti cercheranno, vedrai, amore, vedrai. Tu sei mia figlia e io lo so che andrà tutto bene. Gilda, guardami. Andrà tutto bene. Vedrai. Cos'è questa roba? La cena? Sono contenta che ti piaccia, Tom. Ma sono funghi? Sì, fucsia. Sono una novità. Ma mamma, ma come fanno dei funghi ad essere fucsia? Dove li hai presi? Li ho presi da Gino, come sempre. Li coltiva lui. Hai sempre mangiato tutto quello che coltiva e non hai mai fatto storie. Beh, forse perché quello che coltivava di solito aveva il colore delle verdure. E non questo. Ragazzi, oggi c'erano questi e ho voluto provarli. Credo che ancora non li conosca nessuno. Probabilmente siamo tra i primi ad assaggiare questa novità. Beh, basta che non siamo anche tra gli ultimi. Insomma, ragazzi, ma insomma, basta. Ma quanti anni avete? Smettete, la forza. Non è proprio il caso di sprecare il cibo con quello che costa. Ma tanto la pago io questa roba, fucsia. Gilda? Gilda, amore, perché non racconti a Tommaso del provino, eh? Che bella figura che hai fatto fare alla mamma. Ho fatto fare bella figura alla mamma, Tom! E che cosa hai fatto? Fammi vedere come hai ballato così. Insomma, basta, ragazzi. Ma cosa avete tutte e due? Insomma, possiamo far finta di essere una famiglia normale? Ma mamma, noi non siamo una famiglia normale. Gilda, merda. Per favore, Tommaso, basta un po' di serietà. Tommaso. Scusa, sono serio, sono serio. Allora, Gilda, gli dici di questo provino? Ha fatto il provino! Ha fatto il provino! Ah, sì, Gilda, e per il resto, come stai? Tommaso. Beh, che c'è? Non posso chiedere a mia sorella come sta? Tommaso, smettila. Perché? Lo sai perché. Beh? Sta bene, Tom. Sta bene, Tom. Ah, sì? Sei sicura, Gilda? Perché io sono passato da scuola e mi hanno detto che non ci vedo un po'. E così ho pensato che cominciava a stancarti un po' troppo. Mi sono preoccupato. Tommaso, te l'ho già detto che si sono sbagliati. Non è vero, amore? Gilda? Cosa c'è, Gilda? Tommaso, non capisco perché hai tirato fuori questa storia quando avevamo già chiarito. Gilda, allora ho ragione, ti stancava troppo. Ma che discorsi sono, ma certo che stancante, la danza è una disciplina che stanca. Gilda? Rispondi, amore. Non ci vado. Visto? Zitto tu! Come no? Come non ci vai? Non ci vado. Come? Che cosa è successo? Ti stancava troppo. Ma come? Eppure il provino... Mamma, dai, il provino! Stai zitto, Tommaso! L'hai passato comunque il provino, no? Lo hai passato il provino, Gilda? La smetti di mettere tutto in dubbio, tu? No! No. Cosa no, amore? Gilda, rispondi alla mamma. Basta, Tommaso, non l'asfissiare e lasciala parlare. Allora? No. Gilda, tesoro, non l'hai passato? Gilda, stai bene. Ma insomma, Tommaso! Ma insomma cosa, mamma? Ma non posso preoccuparmi se mia sorella sta male. Non sta male, è soltanto stanca. Ma cosa dici, mamma? Non è quello che la stanca, non è quello. Tommaso, tu sei... Sei... Cosa? Dai, dillo cosa. Sei proprio come tuo padre. Sì, sì, sono proprio come papà, anzi sono peggio, perché lui almeno se n'è andato. Io invece sono qui a fare la muffa. Tommaso, basta, tu non sai quello che dici, tu sei drogato. Drogato? Sì, drogato e bevi. Ne sono sicura, altrimenti non diresti queste cose. Sì, bevo, mamma, bevo e mi drogo. E la sai una cosa? Quando ti dico che vado a lavorare, non è vero. Non è vero, vado in giro armato a chiedere il pizzo. Guardami. E Gilda è sana come un pesce. E questo è il bel quadretto che vuoi. A te non ti importa di niente se non delle tue chiappe. E senza quello step non potresti vivere. Ma ti dico una cosa, se continui così morirai. E morirai sola, anche tu, come un cane. E le tue chiappe saranno belle che servite a fare da cibo per i vermi. Se ce ne saranno in questo schifo. Smettila! Sì, mamma, la smetto. Ma la smetto una volta per tutte. Tommaso, tu sei proprio identico a tuo padre. Sì, sono identico a papà e adesso faccio come lui. Tommaso! Tommaso, dove vai? Torna qui, torna indietro, Tommaso! E adesso? Non voglio diventare famosa. Ma che dici? Ma come non vuoi diventare? Ma certo che diventerai famosa, una famosissima ballerina come la tua mamma. Solo che tu potrai... Non voglio diventare famosa. Ah no? E cosa vuoi, Gilda? Che cosa vuoi? Non capisci che questo è l'unico modo per andare a... Il gruppo. Che cosa? Il gruppo con Tom. Che cosa c'entra Tom adesso? Tom suona. No, Tom deve pensare a fare carriera in fabbrica. Devo provare. Che cosa? Le canzoni. Devi provare le canzoni. Io canto con Tom. Tu canti con Tom. Devo provare. Ti voglio bene, mamma. Oh mio Dio. No, ditemi che è un incubo. Non posso pensarmi. Mia figlia canta con Tom, deve provare le canzoni. Oddio. Va bene. Lavorare. Pensare a lavorare. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore. Ponte. 7, 5, 4, 1. Pronto, Angelica, ciao, sono Amanda Ferrone. Sì, ti chiamavo per la Bottega della Natura e per una nuova linea di cosme... Come? No, Tommaso? Sì, eh sì, in fabbrica anche lui, in gamba il mio Tommaso. No, sa... sì, anche il tuo Giacomo, lo so, ma... Vabbè, ma che cosa vuol dire, cara? Ma no, sta benissimo. Beh, non so, ci sarà in giro qualche virus... Cara, mi dispiace, ma tu hai detto di no, ti ho detto che sta bene. E non lo so, e allora è un'epidemia. È ovvio che poi stanno ogni giorno insieme, se la passano. Vabbè, però, prima di preoccuparti. Esatto, senti prima il dottore, no? Ma certo, cara, che ti capisco, ma sì, come si dice per non mettere il carro davanti ai buoi, no? Cioè, va bene, tesoro. Allora fammi sapere, eh? Così poi ti porto anche quel deodorante che ti piace tanto. Pronto? Angelica. Tom! Tommy, ma dove sei stato? È fuori, Gilda. Io non riesco più a stare qui. Fai preoccupare la mamma. Ma chi se ne frega della mamma? Tom! No, dico sul serio, io non la sopporto più. E non mi fa bene stare qui. E nemmeno a te, non dovresti stare qui. Ma cosa dici, Tom? Gilda, io e te non dobbiamo stare per forza qui. E la mamma? E il nostro gruppo? Non ti piace quando suoniamo? Dai. Sì. E allora vieni con me, andiamo a suonare. Ma suoniamo già. Sì, ma dico, via da qui, andiamo via a suonare. Ma suoniamo qui. Aspetta, chiudi gli occhi, eh? Aspetta. Ce li hai chiusi? Sì. Ho una sorpresa per te. Che cos'è? Una palla. E poi? Si sta scaldando. Sì, e poi? Ma fuoco! Apri gli occhi, Gilda. È un mappamondo. E l'ho trovato accanto a un cassonetto vicino alla fabbrica. Funziona. E lo vedi, Gilda? E questo è tutto il mondo. E noi siamo più o meno presso poco circa, diciamo, qui. E intorno c'è tutto il resto. No, non ti va di vederlo? No, Tom, mi piace la mia camera. Sì, Gilda, anche a me piace la tua camera, ma possiamo averne un'altra, molto più grande, solo da un'altra parte. Ma se ho già questa. Ok, possiamo avere questa e un'altra e un'altra, tanti milioni di miliardi di stanze, tante stanze. Ma qui c'è Sparky! Ok, portiamo Sparky con noi. Mica ti ho detto che non possiamo portarlo con noi, no? Lui ci aiuta con il gruppo. Appunto, ancora meglio. Lui sta qui, lui lavora solo qui. Dai, Gilda. Tom, io sto bene qui. Tu non stai bene. Qui. Io voglio dire che tu non stai bene qui. E nemmeno io, e se resterò le cose non miglioreranno. Io non posso pensare di lavorare tutta la vita in una fabbrica, Gilda. Ma tu suoni, Tom. Sì, appunto, e voglio fare il musicista, proprio come papà. Ma tu sei già un grande musicista. Tu non mi ascolti. Sì, guarda, ti sto ascoltando. Sgocciate. Cos'è il nome del nostro gruppo? Sì. Che brutti. No. Vieni qui, dai, vieni qui. Ti voglio bene, Gilda. Anch'io ti voglio bene, Tom. E voglio che tu stia sempre tanto bene. Lo so, Tom, ma io sto bene qui. Gilda, io devo andarmene. Vuoi venire con me? No, Tom. Gilda, ti prego, se mi vuoi bene, vieni via con me. Andiamo via, io tu. E Sparky, se ti va. Andiamo in giro per il mondo. Guarda, ho un progetto importante. Dobbiamo far sentire a tutti le nostre canzoni. Guarda il mondo. Guarda com'è grande, Gilda. Noi dobbiamo andare in giro e conoscere il mondo e far sentire la nostra musica a tutti. Invitiamo qui la gente. Ma come facciamo ad invitarla qui? È giusto che anche noi andiamo lì. Leggo voi. Non lo so. Non lo so, un giorno in una città, poi in un'altra, poi in un'altra ancora. Andiamo in giro, facciamo una vera e propria tournée. No, meglio se vengono loro. Ma come fanno a venire loro, Gilda? Come li chiamiamo? Ma ci pensa Sparky! Oh! Good morning, can you come in my room? In my music, hola, che passa? Puoi svenire e chiudere il Tommy alla Gilda? Gilda. Tu mi vuoi bene? E allora perché non vieni via con me? Tu mi vuoi bene, Tom? Certo che ti voglio bene, Gilda. Allora perché non rimani? Perché sto male. Ho un Howlin. Gilda, Howlin! Vieni qui. Vai a dormire, Tom. Domani mattina devi lavorare. Io odio quel posto. Non è vero. Sì, è vero. Vai a dormire, Tom. Buonanotte. Non lo so. Gilda? Chiedi a tuo fratello se vuole dei kiwi. Oh! Ho sentito! Sono qua, ho sentito, non ne voglio, grazie. Digli che sono buoni, che sono di campo. Mamma, non serve che tu dica a Gilda cosa deve dirmi. Io sono qua, ci sento benissimo. E solo che i kiwi color arancio a me non mi piacciono. A me queste stranezze alla moda, come le chiami tu, a me non le voglio. Ma se non li hai nemmeno assaggiati. Mamma, i kiwi dentro sono verdi. Ma dico io, ma come fa un kiwi ad avere un colore così? Ma come fa la roba di un contadino a non essere sana, eh? Che ha le sue terre proprio qui dietro. Io non capisco, Tommaso, non ti riconosco più. Mamma. Ma papà, hanno la vitamina C, ti fanno bene. E prima di andare al lavoro che fa caldo, poi bruciano anche i grassi. Mamma, io non ho problemi di linea, dai. E comunque io non mi fido a mangiare la roba di quel contadino. Ma che cosa ti ha fatto Gino adesso? Gilda? Tesoro, puoi cantare un po' più piano, per favore? Ma no, niente, non mi ha fatto niente, Gino. Però sicuramente non mi fido a mangiare la sua verdura. Hanno già sequestrato un sacco di roba in giro. Oh, non mi risulta, se no non starebbe ancora qua. Ma non a lui, ad altri che erano molto più lontani da qui. Beh, vuol dire che dove sono loro ci sono dei problemi. Se no avrebbero tolto tutto anche a lui. Qui noi siamo al sicuro, e lo sai il perché? Te lo dico io il perché. Per la fabbrica. Qui tengono tutto sotto controllo perché c'è la fabbrica. Vogliono tenere tutto in regola. E allora siamo fortunati in questa zona. Mamma, I funghi di ieri erano fucsia. Senti, Tommaso, se non sai stare al passo coi tempi è un problema tuo. Ma non metterti a tarpare la mare di Gino, che è un grande lavoratore ed era anche un caro amico di tuo nonno. Non mi piace la piega che stai prendendo ultimamente, Tommaso. Vabbè, io me ne vado. No, non te ne vai, non hai mangiato quasi niente. Ma faccio tardi. Aspetta solo un momento, prima dobbiamo parlare. Faccio tardi. Tesoro, aspetta, vieni qui. Tesoro, mi dispiace per ieri, ho perso la pazienza. Ma non so che sei un bravo ragazzo, tesoro, tanto bravo. Va bene, mamma, va bene. Adesso io ora... Aspetta, non ho finito. Tua sorella. Beh, che c'è? Tua sorella non va più a danza e mi ha detto che non vuole diventare famosa perché ha deciso di cantare con te in un gruppo. Lo so, e con questo? Devi aiutarla. Io? E come? Tommaso, non ci sono molte speranze per lei qui. Finalmente te ne sei accorta anche tu, mamma, perché è una vita che io dico che Gilda non dovrebbe vivere qui. Ma non dire sciocchezze, dove vuoi che vada, lontano da qui. Dicevo che da sola non può farcela. Infatti io la porterò via con me. Via con te? E dove? Dove te ne vuoi andare, Tommaso, si può sapere? No, va bene. Va bene non rispondere, ho capito. Ho capito, lui fare il musicista, vuole andarsene, vuole lasciarci al nostro destino. No, io voglio portare Gilda con me. Voglio andare in giro a suonare con il nostro gruppo. Non dire sciocchezze di prima mattina. Allora tu vuoi andartene. Posso accettarlo. Ma non posso accettare che lasci me e tua sorella così. Così come? Come così, senza sostentamento. Devi trovarci un sostituto, un uomo. Un uomo? E non puoi trovartelo da solo, un uomo. Ma non per me, cretino, per tua sorella. Senti, Tommaso, non andar via prima di averle presentato qualcuno. Ma qualcuno in gamba, dico, è un buon partito. Non uno scapestrato che incontri per strada. No, mamma, io non posso presentare nessuno a Gilda, no. Ma come no? Perché mai? Si può sapere che cosa le manca? È che tu la vedi ancora una ragazzina. Ma Gilda ormai è una donna fatta. Gilda non sta bene. Non dirlo! Non devi dire una cosa del genere, lo sai che non è vero. Smettila, trova qualcuno e vattene. Non è questo che vuoi. E allora fallo. Se non sei abbastanza generoso da occuparti di noi, beh, allora trova qualcuno che lo sia, presentaci qualcuno, invitalo qui e poi... E poi? E poi fai quello che vuoi. Ma stai scherzando, mamma? Stai vendendo Gilda al primo offerente? No, Tommaso, non fare questi giochetti con me perché sei tu quello che se ne vuole andare. Se Gilda non avesse lasciato tutto, non avremmo avuto bisogno di questi mezzucci, sarebbe diventata una ballerina famosissima. Sì, va bene, mamma, io vado. Tommaso, ricordati. Sì. Sì. Gilda tesoro, perché non smetti di cantare e ti fai truccare un po' dalla tua mamma? E vediamo che vestiti ci sono nel mio armadio, li proviamo. Mica puoi andare in giro così, no? Ma io non vado in giro. Adesso, ma prima o poi uscirai, no? E insomma, mica vorrai vestirti sempre in quel modo, giusto? A me piace questa maglietta. Ma una donna, tesoro, non si veste così. E se dovessimo conoscere qualcuno? Anzi, meglio, un uomo, eh? Sai che gli uomini piacciono le donne di un certo tipo. Ma io non conosco. Adesso? Ma li conoscerai, giusto? Giusto. E non vorrai indossare quei pantaloni quel giorno, vero? C'era un ragazzo a cui piacevano questi pantaloni. Ah, un ragazzo? E quando... Chi è? Non mi dici niente, Gilda. Uno, l'ho visto una volta. In realtà più di una volta. E dove l'hai visto? Era con Tom. Ah, è un amico di Tom. Non lo so, era con Tom. E quando l'hai conosciuto, come si chiama? Tommy lo chiamava Jimmy, beveva una birra al bar della Luna. No, Gilda, non mi piace che frequenti persone che bevono. Al bar della Luna andavo sempre a comprare le Big Bubble. Le Big Bubble? Gilda, ma adesso stiamo parlando di uomini, quindi sarà il caso che tu ti... A lui piacevano i miei pantaloni e anche le Big Bubble. Poi c'è stato quel periodo in cui sono stata a letto per tanto tempo, ti ricordi? Sì, appunto, amore, ma è passato tanto tempo ormai. E non ci sono più andata. E quando sono tornata a comprare le Big Bubble, lui era sempre lì e mi ha chiamato: ehi tu, Fragolina! Così mi ha chiamato. Fragolina, perché? Perché compravo sempre le Big Bubble alla Fragolina di Bosco, quelle viola che sono buonissime. Capisco, e poi? E poi non lo so, non l'ho più visto. Mamma, voglio restare vestita così. Ma va bene, Gilda, calmati, tesoro, calmati. Devo provare. Posso restare qui con te? No. Perché no? Perché meglio di no. Come vuoi. Lavorare. E se ti lascia, lo sai che si fa. Trovi un altro più bello. Luisa, 5, 7, 1, 2. Pronto, Luisa, ciao cara, sono Amanda, come stai? Ah, e di cosa? No, non sapevo che fosse... Mi dispiace. No, mi dispiace tantissimo, ma certo che capisco. Capisco benissimo. Anzi, ti ricordi quel doposole che prendi sempre? Te lo faccio a metà prezzo. Pronto? Pronto, Luisa? Ma insomma, santo cielo, è proprio un periodaccio per tutti. Vabbè, proviamo con Carla. 8, 5, 4, 2. Carla! Amanda Perrone, sì, della Bottega della Natura. Ah, non è un buon momento. Magari preferisci che ti chiami più... Come? Anche il tuo. Allora forse è il caso di fare un vaccino, eh? Perché mi sa che i ragazzi avranno una bella gatta da pelare con questa influenza. Ah, dici che non è un'influenza. Vabbè, ma come possiamo dirlo adesso? No, no, dico solo che... No, Tommaso sta bene. E per questo pensavo che ci fosse in giro qualcosa che... Come? Ma non dire sciocchezze, che noi qui siamo proprio dei privilegiati. Ma certo che sono seria. Li vedi telegiornali? Li senti i problemi dei giovani? Figurati se con tutta la disoccupazione che c'è in giro dobbiamo preoccuparci per un'influenza. Ma no, certo che fai bene a controllare, sì. È ovvio, dico soltanto che con tutto quello che si sente mi sembra un po' esagerato demonizzare così una fabbrica. Esatto, esatto, cara, proprio quello che dicevo io. Prima fai i tuoi controlli, così dopo con calma ti vieni a prendere tutti gli ombretti nuovi che vuoi. Caro dottor Susecic, con la presente volevo ringraziarla perché... No, forse dovrei usare qualcosa di un pochino più gentile. Gentile dottor Susecic, con la anzi no, una volta io ho sentito dire esimio. Esimio dottor Tom, Susecic. Tommy! Ciao, come stai? Sei tornato a lavorare con noi? No, no, ormai ho preso il volo. Che cosa fai? Mi candido. Che fai? Mi candido, Tom, alle prossime elezioni. Ah! Ma sì, poi dopo un po' uno si stufa del solito tran tran, no? Un po' va bene e poi il lavoro nobilita. Tom, ascoltami, perché sento che puoi capirmi. Quando ti accorgi che c'è dell'altro, no? Che è un'altra la vita che ti attende, allora che fai? Non le vai incontro? C'è certo, Jimmy, ti capisco perfettamente. E infatti pensa che proprio... Tom! È un secolo, Tom, è un secolo che non ci vediamo. Nemmeno speravo di incontrarti ancora qui. Sì, sono sempre qui, io controllo la lampadina rossa. Controlli la lampadina rossa, come quando ci siamo conosciuti. Sì, 8 anni, 4 mesi, 51 giorni fa, controllo la lampadina rossa. Da quando hai iniziato? Sì. Sempre a controllare la lampadina rossa. Sì, però adesso basta. E mi fa piacere che tu dica così, Tom. Basta, basta con questa lampadina rossa. Tu puoi fare molto di più. Davvero lo pensi anche tu? Ma certo, tu puoi andare al piano più su ormai. Non sei stufo di questa lampadina rossa? Sì, cioè no, a me piace la lampadina rossa. Solo che non mi piace tutto il resto. Quindi adesso io vorrei... Tu adesso vuoi di più ed era ora. Tutte le volte che ho cercato di inculcartelo in quella testa ostinata. Benissimo, Tom, benissimo. Sei proprio diventato la persona che fa il caso mio. Perché? Perché io cerco una persona che valga di più, che voglia di più, che sia ambiziosa. Proprio come proprio me. Proprio come te. Sì. Perché mi cercavi, Jim? Tom, non è che posso dirtelo subito così su due piedi, no? Devo anche essere sicuro che tu sia discreto. Ma tu lo sai che tutti lo sanno che... Hai ragione, Tom, hai ragione. Tu sei affidabile. In tutti questi anni l'ho sempre saputo. Ti mancava la voglia di cavalcare l'onda, però adesso ti trovo pronta. Sì, sei proprio diventato la persona che fa il caso mio, Tom. Anzi... Al caso nostro. Vostro? Nostro, sì, proprio così, Tom. Nostro. Tom, in che rapporti sei con i tuoi colleghi? Beh, ottimi, Jimmy, perché mi do un sacco da fare, mi rispettano tutti, anche il dottor Susecic. Su questo non c'è il minimo dubbio. Te l'ha detto lui? Ma certo, abbiamo parlato di te e ti rispetta. Lo vedi? Perché sono in ottimi rapporti con tutti, in ottimi, mi rispetta. E sei riservato? Sì, perché non parlo molto, ma quando parlo io mi faccio rispettare. Ma certo, Tom, chi parla molto ha qualcosa da nascondere, lo sapevo che eri la persona giusta, che avevi la stoffa. Dai, siediti qui che ti devo parlare. Ma perché se mi metto lì? Ma sì, Tom, dove vuoi, però ascoltami. Io e te non abbiamo mai parlato. Beh, non molto. Come? Beh, no, non molto, ma perché te l'ho detto che sono un tipo riservato. No, Tom, io dicevo ora. Ora io ti devo dire una cosa estremamente riservata. La sappiamo solo noi e lui. Quindi tu dovrai fare come se noi non avessimo mai parlato. Ma quindi tu mi dici di dire che io e te non abbiamo mai parlato? No, Tom, non devi dire niente. Niente proprio. No, però se non mi segui non è possibile, dai, e per favore. No, Tom. scusami, Jimmy, ti ascolto. Mi ascolti? Sì, ci sono, ti ascolto. No, perché è davvero importante questa cosa, Tom, se non mi stai sul pezzo. No, sono sul pezzo, guardami, sono sul pezzo. Ok. Io non lo so in che rapporti tu sia con i tuoi colleghi, però ci sono delle voci. Delle voci? Sì, delle voci, diciamo un po' antipatiche, ecco. Ah, che? Quelle vocine che fanno tutte così. Ma cosa stai dicendo, Tom? Sì, che danno un sacco di fastidio anche a me, fanno sempre così. Ma di cosa stai parlando? No, dai, non è possibile, non si può parlare così però, no, Tom, scusa, dai. Scusami, Jimmy, scusa. Eccomi, sono serio. Sei serio? Sono serio. No, sì, perché sì, è davvero importante questa cosa, Tom, perché queste voci stanno mettendo in serio pericolo la fabbrica. E sai che vuol dire pericolo per la fabbrica? Vuol dire pericolo per tutti, vuol dire pericolo per le famiglie. Ma cosa dico pericolo per le famiglie? Vuol dire pericolo per l'intera città, un'intera città condannata per delle voci di corridoio. Capisci che non possiamo permettercelo, Tom? È un'altra la fabbrica che bisogna chiudere. Bisogna chiudere la fabbrica delle negatività, bisogna chiudere la fabbrica delle dicerie. Sono questi i veri fumi che ci inquinano, sono questi i veri fumi pericolosi, ed è per questo che ho deciso di scendere in campo per le voci. E dai, Tom. No, dai. Scusami, Jimmy, è che io non le ho mai sentite. Non le hai sentite? No, mai. Mai sentite? No. E mi fa piacere, Tom, che tu non le abbia mai sentite, perché vuol dire che sei già nella squadra giusta, capisci cosa intendo? Vuol dire che non mi sbagliavo sul tuo conto. E neanche lui. Ma lui? Lui, Tom, lui, il dottor Susterci. Ah, il dottor Susterci. Ah, certo, Tom, ma di chi stiamo parlando? No, io ho capito. Io però non ti voglio così distratto, Tom. No, ci sono, sono concentrato. Sei concentrato? Sì. Bravo, Tom, mi piace, vai subito al sodo, non la prendi alla larga, non fai giri di parole, non vuoi tergiversare. Ok, veniamo a noi. Noi avremmo bisogno che tu spostassi quella leva. Quella là, accanto alla lampadina rossa. Quella. Di rilevazione, hai capito? Quella là. Sì, Tom, hai capito? Non c'è bisogno di dirlo, che qui anche i muri hanno le orecchie. Che? I muri? Che? Con le orecchie! Allora mi sentono suonare anche loro! Perché tu suoni? Sì, ti dispiacerebbe levare le mani dal sax? È perché io ho un gruppo, no? Te l'ho detto, era per quello che stavo scrivendo al dottor Susterci. Piano, Tom, piano, una cosa alla volta. Prima bisogna farlo e poi gli scriveremo per dirgli della tua preziosa collaborazione. Lui saprà essere molto grato. Come? Beh, sì, non pretenderai mica che lui così su due piedi, no? Cosa? Tom, una cosa alla volta. Io apprezzo la tua ambizione, ma cerchiamo di rispettare il giusto concetto di meritocrazia, no? Eh? Che cosa gli vuoi scrivere adesso, se ancora non... Le dimissioni. Come? Le mie dimissioni, la lettera di dimissioni, io voglio fare il musicista. Cosa vuoi fare? Ma te l'ho detto che c'è un gruppo, che fai, non mi ascolti quando parlo? Vuoi dare le dimissioni? Sì! Per suonare? Sì, beh, perché che c'è? No, non avevo capito, non immaginavo. Beh, tu mi hai detto di essere più ambizioso, allora che c'è di meglio di una bella suonata? Io pensavo che tu volessi fare carriera qui, capito? Nella fabbrica, non pensavo... No, perché? No, ma è bello, Tom, è nobilissimo! Che c'è? No, solo che... Dovrò rivolgermi a qualcun altro. Perché? Come perché, Tom? Se te ne vai, non posso mica chiederti. Ma chiedermi cosa di mio, non ti capisco. Come cosa, Tom? Come cosa? Mi stai prendendo in giro? Te l'ho parlato fino adesso, Tom. Come cosa? Ah! La leva. Sì, quello. Ma io mi occupo della lampadina rossa. Che è vicina alla leva. Che è vicina alla leva? E per questo pensavo a te, perché sei vicino alla leva. Sì, sono vicino. Quindi potresti girare la leva. Ma io do le dimissioni. Tom, prima di dare le dimissioni, no? Non puoi fare questa cosa per un vecchio amico. Lui te ne sarà molto grato. Ho capito lui, ma tanto do le dimissioni. Ho capito, ma verrai ricompensato. Cioè, se tu fai questa cosa, poi puoi dare le dimissioni, puoi suonare, puoi fare quello che vuoi. Tom, c'è un premio in denaro. È previsto. Ma io non voglio i soldi. Io voglio suonare. E non ti fanno comodi i soldi per suonare? Cos'è? Sei ricco tu? Guardi la lampadina rossa perché ti piace? Oh, io sono bravo a controllare la lampadina rossa. Lo so che sei bravo a controllare la lampadina rossa, e ti dirò di più, tu sei il più bravo a controllare la lampadina rossa. Infatti non lo fanno fare a nessun altro, lo fai tu. Appunto, non mi occupo mica della leva. Ho capito, te lo stiamo chiedendo, per favore. Qui chiudono tutto, rimani senza lavoro. Ma sto dando le dimissioni, Jimmy. No, ma non puoi essere un po' meno egoista, cioè, ai tuoi colleghi che ti rispettano, non ci pensi? Dopo ti rispetterebbero ancora, secondo te? Pensa a me che sto lavorando sodo per salvare tutte queste famiglie dalla disoccupazione, tutti questi lavoratori che ogni giorno portano a casa il pane lavorando onestamente. Tom, possiamo far parte di qualcosa di importante. Il dottor Susterci sarà molto grato a me, che con la mia campagna elettorale salverò, proteggerò tutte queste famiglie dalla disoccupazione, e io sarò grato a te. Mi segui, Tom? Per la leva? Sì, per la leva. C'è un premio in denaro. Ma io non voglio i soldi. Come non vuoi i soldi? Dovresti fare un'altra cosa per me. Hai bisogno di qualcosa? La fai? Ma certo, Tom, qualsiasi cosa ragionevole, ovvio. Allora tu vieni a cena da me. Eh? Allora tu vieni a cena da me. Ma stai scherzando? No, vieni a cena da me, conosci mia madre e mia sorella. Beh, perché? Che c'è? No, dico, tu puoi avere dei soldi, capisci? Tanti soldi. E vuoi soltanto che venga a cena da te a conoscere tua madre e tua sorella? No, voglio anche i soldi, mica sono scemo. Ah, ti serve uno sponsor, sì, credo bene. Però prima devi venire a conoscere mia madre e mia sorella. Vabbè, Tom, non c'è nessun problema, posso tranquillamente venire stasera. Stasera? Sì, stasera, perché io stasera volevo dare le dimissioni, invece faccio questo favore per te. Allora tu stasera vieni a cena da me e convinci mia sorella a partire con me. Dove? A suonare. Suona con te. Lei canta. Canta nel tuo gruppo. Lei canta. E allora perché devo convincerla? Verrà da sé, no? No, non vuole venire. Come non vuole? E non vuole perché lei vuole suonare in camera. Vuole suonare in camera? Ma che, si vergogna? No, è che è un po' strana. Cioè, è speciale. È strana speciale. Ah, vabbè, Tom, ma che sarà mai? Un po' di timidezza, no? Fa sempre un certo non so che affrontare il grande pubblico. Vabbè, Tom, non c'è nessun problema. Tu mi fai questo favore e io stasera vengo a cena da te. E conosci mia mamma e mia sorella. E conosco tua madre e tua sorella. E convinci Gilda a suonare con me. Tua sorella si chiama Gilda? Sì, come il film. Ah, bel nome, perfetto per una cantante. Oh, potreste venire a suonare per la mia campagna elettorale. No, noi non suoniamo qui, noi andiamo fuori a suonare. Ma certo, Tom, anche in altre città, però qualche concerto qui che sarà mai per il tuo amico che si candida per salvarci, dai. Va bene, e poi via a suonare. Ma certo. Con Gilda. Gliela faccio passare io la timidezza, Tom. La fama non ha mai fatto schifo a nessuno. Ok, Jimmy, allora ci vediamo alle 9. Frena, Tom, frena. Io stasera vengo a cena da te, ma tu quando me la giri la leva? E beh, io al prossimo turno di notte ti giro la leva. E quando è il prossimo turno di notte? Giovedì. Giovedì? Oggi è lunedì, Tom. Chi mi dice che entro giovedì non hai già presentato le dimissioni? Te lo dico io. Sì, ma io come faccio a sapere? E allora mi metto il turno stanotte, Jim. Stanotte? Ma se sono a casa tua. E allora stanotte, mentre tu vieni da me, io dopo, mentre tu sei là, io vengo qua a fare gli straordinari. O faccio un cambio turno. Sì, ecco, faccio un cambio turno. E lo fai stanotte? Sì. Sei sicuro, Tom? Non ti tiri indietro? No, parola d'onore. E tu mi aiuti anche a scrivere la lettera per il dottor Susterchich? Tutto quello che vuoi, Tom. Allora, lo fai? Ma certo, ti ho dato la mia parola d'onore. Io stasera vengo a cena da te e convinco tua sorella a venire a suonare con te in giro per l'Italia. Per il mondo! Per il mondo, come siamo diventati ambiziosi. Mi piaci, Tom, mi sei sempre piaciuto. A stasera. Cosa fai? Guardo fuori. E cosa guardi? Provo a scovare una stella. Una stella? E la vedi? No, il cielo è troppo rosso. Rosso? Sì, è rosso, non vedi? Beh, sì, in effetti, sarà scirocco. No, mamma, non è lo scirocco. Ma no? E allora che cos'è? Sono i gas. Ma che dici, i gas? Sì, mamma, sono i gas della fabbrica, le stelle non ci sono. Va bene, Tommaso, sono i gas, ma le stelle stanno lì dietro e puoi immaginarle lo stesso. Vieni qui, esprimi un desiderio. L'hai espresso? Sì. Anch'io. E sai che cos'era? Non ho mica la palla di vetro. Felicità e salute per te. E tanto, tanto successo per la nostra Gilda. Sì, ok. Adesso io però devo andare, mamma, perché ho un cambio turno in fabbrica. E torno a cena però con un amico. Un ospite? Questa sera, Tommaso? Ma come? Ma guarda come la casa, ma come... Chi viene? Chi è? Allora, oggi a lavoro è venuto un ragazzo, no? E io vorrei che tu lo conosca. Tommaso. Beh, che c'è? Che cosa devi dirmi? Ma no, mamma, ma dai, ma che hai capito? Ma non per me, per Gilda! Oh, amore, no. Per Gilda! Scusami che tu parli sempre a metà. Per Gilda, oddio, ma proprio stasera lo dovevi invitare, Tommaso. E lui può solo stasera? È molto impegnato. Ah, non poteva un'altra sera? E come mai è così impegnato? Lui fa il politico. Che fa? Il politico. Il politico, mamma, quello che tu lo voti. Vabbè, ma io non posso sempre spiegarti tutto, però. Il politico? Addirittura un politico. E com'è che lo conosci? Perché lui lavorava in fabbrica con me. Ah, e ora fa il politico. Capisci, Tommaso? Capisci che questo significa volere di più? Anche tu dovresti volere di più. Ma cosa c'entra adesso? Lui viene stasera a cena ed sono venuto a dirtelo perché lui vuole parlarti. Vuole parlarmi? Sì, perché gli ho parlato di te, cioè di noi, e lui vuole conoscervi. Ah, vabbè, certo, forse da lontano mi conosce già, quando eri in TV. Vabbè, ma sarebbe meglio che conoscesse tua sorella. Ecco, mamma, politico. Lui viene perché crede in me. Crede in te? Sì, mi ha affidato un incarico di altissima responsabilità. C'è anche un premio denaro. Ma davvero, Tommaso, così tutto di colpo, tutto insieme? Beh, tu mi hai detto di essere un pochino più ambizioso, allora io... Amore, sì, vabbè, te lo dico da anni. Non mi aspettavo che così da un giorno all'altro di colpo... Amore mio, ma che bella, bella sorpresa, tesoro. Vieni qua. Bella tesoro di mamma. Mamma, lasciami stare, sono sudato, faccio schifo, puzzo. Vabbè, un po' d'affetto ogni tanto fa bene, Tommaso. Insomma, a che ora arriva? Io dovrò sistemare la casa, cucinare qualcosa. Non posso mica farmi trovare così. E dovrò trasformare Gilda. Oh, tesoro, io lo apprezzo tantissimo. Ma proprio stasera lo dovevi invitare. Beh, come si chiama? Jimmy. Per gli amici Jimmy Jammy. Ma non è il suo vero nome. È un soprannome, sai, noi tra amici. Giusto. E qual è il suo vero nome? Non lo so. Come non lo sai? Non sai il nome di un tuo caro amico? No. Vabbè, non ci importa. Quello che conta è che veda Gilda. E quindi dobbiamo renderla meravigliosa. Mamma, Gilda è meravigliosa. Ma certo, è meravigliosa per noi che la conosciamo, ma gli altri ancora no. E allora dobbiamo aiutarla. Con un bel vestito, del trucco, magari anche il tavolo. Mamma, io non capisco quello che dici quando fai questi discorsi. Gilda è meravigliosa per quello che è, per quello che fa. Non c'è bisogno di trasformarla. Vabbè, io me ne vado. Aspetta, Tommaso, a che ora? Alle 9. Alle 9? Abbiamo soltanto 2 ore. Dio, Tommaso, ma come si fa? Dico io, una si svena così tanto e dopo tutto di colpo. Non ha proprio mezza misura quel ragazzo. Un politico. Gilda! Gilda, amore, vieni qui, ti devo dire una cosa. Gilda, vieni subito qui. Ecco, guarda fuori, cosa vedi? Il cielo rosso. Sì, è rosso, ma dietro ci sono le stelle. Esprimi un desiderio. Aspetta! Sparchi. Ecco, vieni qui. Ci sei? Chiudi gli occhi. Esprimi il desiderio. Espresso? Sì. Amore. Tanto successo, piccola mia. Tanto, tanto successo. No, mamma, voglio restare vestita così. Così? Sì. Niente storie, Gilda. Ma io voglio stare così. Gilda, infilati subito questo vestito. No. Non fare storie, non sei più una bambina. Non lo voglio. Ma che discorsi è, non lo voglio, è bellissimo. Mi vergogno. Ti vergogni? Io voglio stare vestita così. Gilda, tu adesso ti metti questo vestito perché se lo faccio io è peggio, hai capito? Gilda, e lascia stare questo topo sempre in mano. Mamma, Sparky! Gilda, smettila. L'hai voluto tu, non fare la bambina, forza, togli la maglietta. Sparky. Muoviti, niente storie. Alza le braccia, di meno. Di più. Tira sui capelli. Trattieni il respiro. Oh, lascia i capelli. E respira. Non frignare. Così adesso vediamo se a Jimmy non gli farai girare la testa. Chi? Jimmy, si chiama così l'amico di Tommy che viene a cena stasera. Devo provare. Gilda Perrone, tu non ti muovi di qui e aspetti tuo fratello e il suo amico, capito? Devo provare. Forza, metti le scarpe. Mamma, se il ragazzo delle Big Bubble io muoio. Ma che muori e muori. È perché poi dovrebbe essere quel ragazzo. Forza il rossetto. Tira le labbra. Meno. Di più. Ecco qua. E poi perché dovrebbe essere quel ragazzo? Si chiamava Jimmy anche lui? Che sarà mai? Sai quanti Jimmy ci sono in giro? Sicuramente non sarà lui. E se lui, io muoio. Gilda, io sono stufa dei tuoi capricci. Adesso tu stai qui buona e aspetti che rientri tuo fratello. E sorridi. I miss a castle, seven doll. It's my favorite color. Gilda! No! Gilda, muovi il culo, adesso! Buonasera. Buonasera, permesso? Ma certo che è permesso, Jimmy, ti ho invitato io a casa mia. Ma no, Tom, dicevo così per il disturbo. Ma non disturbi affatto, che discorsi sono? Mamma. Buonasera, che piacere, un vero piacere averla qui. Tommaso mi ha parlato così tanto di lei. Ma signora, mi dia pure del tu. Del tu? A una persona così importante come lei. Io non avevo capito all'inizio, ma... Ora la riconosco, sa? L'ho vista sui manifesti di tutto il quartiere. Ah, ma li ha visti? Vabbè, signora, ma mi dia del tu, mi ha anche invitato a cena, quindi... Ma che caro ragazzo, così genuino, alla mano. Questo ci vuole per la politica, non è così, Tommaso? Sono proprio contenta di conoscerti. Ma accomodati. Tommaso, perché non fai accomodare il tuo amico? Sì, Jimmy, siediti lì. Che devo sentire, Jimmy, siediti lì. Ma Jimmy, posso chiamarti anch'io così? Ma certo, signora. Ecco. Prego, accomodati. Grazie. Beh, ragazzi, vi porto qualcosa mentre aspettiamo che finisco di preparare la cena? Qualcosa da bere? Un vino bianco? No, mamma, grazie, niente. E tu, Jimmy? No, niente, signora, davvero, grazie. Sei astemio? Ma no, è che non bevo spesso, ecco. Ma questa è un'occasione particolare e ho comprato apposta un vino speciale e lo prepara proprio il contadino qui dietro. Ah, beh, allora, signora, quando è così ha ragione, accetto. Ma lo fa lui? Sì, tutta roba sua, genuina, la coltiva, la raccoglie, ma queste cose in città se le possono scordare. Ah, e poi arrivo con una sorpresa. Vado e torno subito. Beh, è forte tua madre, Sì. Le piace parlare. Lo adora. Beh, è proprio una bella signora. Ma non ho capito, Jimmy, ci stai provando con mia madre? No, Tom, dicevo così per dire. Eccoci qui. Ah, a questa serata. A questa serata. Sì, a questa serata. Ma Gilda, dov'è Gilda? Gilda? Beh, è di là. Non si sentiva troppo bene, voleva stare tranquilla un attimo. Gilda è quella bella ragazza che ci è venuta ad aprire. Sì, Jimmy è mia sorella. Beh, sì, in effetti. Non vorrei sembrare di parte perché sono la madre, ma sì, è proprio bella, vero? Signora, io l'ho vista solo di sfuggita, ma mi sembra proprio di sì. Sì, è molto bella e anche un bel carattere. È riservata, non parla mai troppo, cosa che invece potrebbero dire di me, ma no. Lei è timida. Non si sente molto di ragazze timide oggi, si direbbe che è diventata quasi una qualità. Beh sì, in effetti con tutto quello che si vede e si sente in giro oggi, potrebbe dirsi una ragazza d'altri tempi. Mamma, la smetti di prendere in giro Gilda? Tommaso, io non sto prendendo in giro Gilda, trovo davvero che tua sorella abbia delle qualità che ormai hanno in poche. Continui a parlarmi pure della... Ti ho dato di nuovo del lei, deve essere il vino. Ecco, lo poggio, questo è l'ultimo bicchiere. Ma non si preoccupi, signora, mi dia del lei, mi dia del tu. Sono solo formalità, catene in cui anni di educazione rigida ci hanno costretto. Giusto, catene, scateniamoci. È sì, questo che è scritto sui manifesti. Scateniamoci, sì. Adesso ricordo. Si ricorda. Eh sì, tu sei quello della fabbrica. Sì, esatto, signora, stiamo raccogliendo le firme perché vogliono chiudere la fabbrica. Sì. E perché? Perché hanno messo in giro queste voci, signora, queste male lingue, chiamiamo le cose con il loro nome, dicono che la fabbrica faccia del male a questa città. Ma sei dato lavoro a tutti, ma come gli viene in mente, io non so, la gente non ha niente di meglio a cui pensare. E poi tutti questi ragazzi, tutti quei padri di famiglia, dove andranno a lavorare, si può sapere? Mamma, tu non avevi una sorpresa per noi? Tommaso, che cos'è questa brutta tosse, amore? Hai preso qualcosa? Guarda che ho sentito le altre mamme, là dentro gira un virus. Mi sa che ve lo state passando a vicenda. Beh, vabbè, comunque io adesso vado a prendere questa sorpresa. Ma continua pure a parlare perché sono qui accanto, E torno subito, continua a parlare, caro. Ecco, sì, dicevo, siccome hanno messo in giro questi pettegolezzi e hanno usato la televisione, io, signora, ho una grande opinione della gente. Ma quando c'è di mezzo la televisione non c'è niente da fare, Ci cascano tutti. Sono stati furbi. Quindi io sto cercando non solo di salvare la fabbrica, ma l'intera città. Ma allora sei un eroe? Un eroe? Vabbè, signora, non esageriamo. Diciamo che faccio del mio meglio, ecco. Ed ecco qui la sorpresa per l'eroe della serata. Ah. Voilà! Ah. Ma cosa sono queste? Sono fragole. Verdi fosforescenti? Sì, è una novità. Le ho prese prima dal contadino qui dietro casa. Quando le ho viste non ci potevo credere. Me ne sono subito innamorata. Non stanno benissimo con queste scarpe, eh? E comunque in città queste cose, questi incroci combinati, sì, così ha detto, seguiti passo passo dalla coltivazione alla raccolta, se li scordano, capito? E insomma... Jimmy, questa è una prelibatezza che ho preso apposta per te. Ah, signora, ma io la ringrazio davvero. Ma che fai, Jimmy? Ma te le mangi pure? Certo, Tommaso non è avvezzo alle novità. Beh, e allora? Ma sono buone, signora, sono buone! Certo che sono buone! Mica hanno tutte quelle cose, quelle schifezze lì, come che si chiamano. Guardi, signora, io sono davvero molto contento che lei dica così. Sa perché? Perché gli stessi che stanno mettendo in giro le voci sulla fabbrica stanno cercando di spaventare tutti. Dicono di non mangiare il cibo coltivato qui. Ma come? Ma se non lo mangiamo noi che ci viviamo, chi dovrebbe mangiarle? Mamma, ma queste fragole sono verdi, fluorescenti, mamma. Tommaso, Jimmy sta parlando, non essere maleducato. Noi abbiamo una fortuna qui, signora, abbiamo una fortuna. Ce la vogliono togliere in questo modo così subdolo. Ecco che cos'è, subdolo. Esatto, sai che cosa penso io? Che noi siamo dei privilegiati ed è soltanto invidia. Quando uno ha una fortuna, subito scatta, tac, l'invidia da qualche esatto. parte. È tipico, e allora cercano di portartela via. Signora, allora conto sulla sua firma, eh? Caro, certo, conta sulla mia firma, il mio numero, tutto quello che vuoi. Ora però vado a vedere se la cena è pronta, eh? E Tommaso, mi dai una mano? Io? Perché io? Beh, non sai tu, Tommaso, non ho chiesto a te. Tom, signora, se ha bisogno posso venire io. Oh, caro, grazie, mi passa Tommaso. Però magari puoi vedere se ora Gilda se la sente di venire a cena con noi. Sì. No, non mi dispiace, solo che non vorrei disturbare. Oh, che disturbo, e disturbo. Dovrà pur mangiare qualcosa la ragazza, no? Vai pure di là, caro, mentre vado. Tommaso, ti aspetto in cucina? Allora, siamo d'accordo? Sì. Buonasera, ciao, sono un amico di Tom, mi chiamo Jimmy, piacere. Tu sei Gilda? Sono venuto a dirti che la cena è quasi pronta. Grazie. Stai bene? Certo. No, perché la mamma mi ha detto sto che... Sto bene. Tom? E Tom è con la mamma, l'aiuta a cucinare. Ma Tom non sa cucinare. Allora non lo so, l'aiuta a tenere i piatti. No, vabbè. Senti, io non sapevo che Tom avesse una sorella. Tom mi ha detto che avete un gruppo, che suonate insieme. Io non suono. Non suonate insieme? Tom suona, io canto. Ah, giusto, tu canti, è vero. Insomma, avete questo gruppo e volete... Vogliamo suonare. E volete suonare, avete un gruppo e volete suonare, no? È perfetto, non fa una grinza. Insomma, Tom mi ha detto che vorreste suonare in giro. No. No? No. Mi ha detto una bugia. Lui vuole suonare in giro. E tu non vuoi? No. E tu cosa vuoi fare? Non vuoi suonare? Cantare. Giusto. Non vuoi cantare? Voglio stare qui. Qui? Sì. Ma qui non potete suonare. Suoniamo sempre qui. Sì, ma qui non vi sente nessuno. Ma c'è Sparky! Oh! Ah, c'è Sparky! Ok, Sparky. E nessun altro? Non abbiamo ancora invitato nessuno. Ah, perché voi volete invitare le persone qui? Sì. Ma qui le persone non entrano. Sì. Due persone. Due persone alla volta. Ah, due persone alla volta. Ma è ridicolo. Due persone alla volta. Sparky, stacca i biglietti. Ah, quindi io devo pagare il biglietto? Se ci vuoi sentire suonare, sì. Ma certo che sei strana, eh. Cioè, sei strana forte. Però è una cosa bella, cioè. Sei forte. Vuoi una Big Bubble? Ma sì. Dai, dammi una Big Bubble. Ma no, noi due ci siamo già conosciuti? Sì? E quando? Le Big Bubble. Come? Tu hai preso una birra ed io le Big Bubble, tutte le Big Bubble, tutte le Big Bubble alla fragolina che tolgo. Ma certo, tu sei fragolina, sei fragolina, oggi sono da quanto tempo fragolina? Sì, fragolina. Ma come hai fatto a ricordartelo? È una buona memoria. Beh, devo dire di sì. E allora, visto che ci conosciamo, perché non mi fai sentire qualcosa? Paga il biglietto a Sparky. Devo pagare il biglietto a Sparky? Sì. Va bene, paghiamo il biglietto a Sparky. Vabbè, Gilda. Ti racconto una storia, la storia di un ragazzo e di un topo. Sparky! Non proprio come Sparky, Gilda, questo è il topo più importante del mondo. C'era un ragazzo che aveva un sogno e per realizzare quel sogno si trasferì in una grande città. Qui cominciò a fare i lavori più umili, ma i risultati tardavano ad arrivare e lui era sempre più solo e senza soldi. E così andò a vivere in una stamberga in periferia. Un giorno vide che nel buco di un muro viveva un topo. Non lo mandò via, cominciò a parlare con lui. Era un topo astuto, intelligente e fra loro nacque una grande amicizia. Così ad un tratto questo ragazzo cominciò a immaginare delle storie che avevano come protagonista un topo in una città di topi con tanti tanti tanti tanti tantissimi topi e divenne ricco e famoso. Gilda, inventò la fabbrica della fantasia. Sai chi era quel ragazzo, Gilda? Sai chi era quel ragazzo? Quel ragazzo era Walt Disney. E sai chi era il topo, Gilda? Sai chi era il topo? Il topo era Mickey Mouse, Gilda. Anche tu puoi essere come Walt Disney. Bello. Gilda, facciamo le prove come fai con Tom, dai. No, no, paga il biglietto a Sparky. Non c'è bisogno di pagare il biglietto a Sparky, perché vi faccio da manager, vi porto in giro per il mondo. Io, te, la mamma, Sparky, Tom, ce ne andiamo tutti in giro per il mondo, Gilda. Sì, dai, così. Brava, Gilda, brava. Brava, Gilda. Brava, Gilda. Brava. Brava. Brava. No! Gilda. Gilda. Gilda, è stato solo un attimo. Ci siamo lasciati prendere dall'euforia delle prove, Gilda. Mi ami? Ma sai, io amo te, amo la mamma, amo Sparky, amo Tom. Io amo tutte le persone, Gilda. Gilda, per questo che io scendo in campo, Gilda. Io amo la gente, Gilda. Don't worry! Gilda. Allora? Sto meglio, no? Come? Gilda, dico, ho sentito un gran trambusto di musica, di risate, insomma, sta meglio, vieni a cena, no? Signora, io devo proprio andare. Ma come devi andare? Sì, è che sono davvero molto, molto impegnato. Sì, ma sei venuto per cena e te ne vai senza cena? E dov'è Tommaso? Tom è dovuto andare in fabbrica, aveva un cambio turno e... Ma dico io, come gli viene in mente di invitare una persona e poi non chiedere un permesso al lavoro? Guardi signora, suo figlio è un gran lavoratore ed è proprio per gente come lui che io sto lottando e... Ah, meno male Jimmy, meno male che ci sei. Ma allora davvero niente? E neanche un assaggino? Guardi signora, la mia fidanzata mi sta aspettando in stazione. La tua fidanzata? Sì. Ah, Tommaso non mi aveva detto niente. Ma stiamo facendo i preparativi per il matrimonio. Ah, vi sposate, bene. Allora, auguri, che bella, bella notizia, bene. Signora, io la ringrazio davvero infinitamente. Addio. Addio. Fidanzato, non ne fa una giusta quell'irresponsabile. E non c'è mai poi lui, no? Non c'è mai a vedere quello che combina, no? Lui scappa perché è un vigliacco, è proprio come un suo padre. Tommaso, eccoti, giusto in tempo. Giusto in tempo? Per che cosa? Dov'è Jimmy? Jimmy? È curioso che tu me lo chieda. Jimmy è andato alla stazione a prendere la sua fidanzata. Cosa? Già, è fidanzato, non lo sapevi? No, non lo sapevo. E non è un tuo caro amico? Ma non lo sapevo. Non ti vergogni per quello che hai fatto, eh? Perché? Che cosa ho fatto? Me lo domandi anche. Porti qua un tuo amico per tua sorella e non ti informi prima se sia libero o meno. Ma io non lo sapevo. Appunto, queste cose si devono sapere, ti dovevi informare. Non posso pensare sempre a tutto, io non ce la faccio più. Ma adesso basta, dov'è Gilda? Adesso basta a me. Non ti permettere, Tommaso, hai capito? Non ti devi permettere. Dov'è Gilda? Gilda, è di là, è in camera sua, nella camera dove resterà per sempre, grazie a te. Gilda, che è successo qui? Andiamo, dai, prendi Sparky, il cappellino, andiamo. Dai, Gilda, andiamo, ti prego, andiamo. Dai, Gilda, vieni con me, dobbiamo andare, andiamo, dai. No,